esattamente. Quindi lunedì prossimo sentirete probabilmente una replica. E fate il pieno di Coxo Spaziale, scrivete se volete al 333 180 94 94, e poi vi potete riascoltare lunedì prossimo, perché siccome facciamo le menzioni per due settimane, rimettiamo questa puntata. Okay. Per cui se ci state ascoltando ed è Pasquetta, sappiate che noi non siamo in studio, siamo registrati. Esatto, stiamo festeggiando anche noi Pasquetta. E invece questa sorta di rumore di fondo che stiamo sentendo in realtà è un nuovo album di Muna Mussi e Massimo Carozzi che si chiama Curva Cieca Oblio, ed è un disco di Xing, che ha prodotto Xing della Xong Collection, cioè Xing produce una serie di dischi che si chiama Xong, che ci sta, no? E dunque adesso non succede quasi niente per un bel po', a parte sta cosa qua, però dopo un po', a un certo punto si canta. Però quello che sono riuscito ad ottenere è che Muna Mussi e Massimo Carozzi, forse lo conosce, l'avete sentito dire, è uno degli Zimmerfrei. Muna Mussi invece è una performer che spesso sta facendo, eccola qua, che spesso fa cose performative e di vario tipo, e verranno, mi hanno promesso che verranno a Coxo Spaziale, non si sa bene ancora quando. E comunque questa si chiama come si chiama questa? Non me la ricordo. Curva si chiama. Curva cieca. Vuoi alzarla un po'? Muna Mussi, fra l'altro, aveva non molto tempo fa aveva preparato una mostra al Mambo nella Project Room, per cui magari le faremo parlare anche di questa cosa qua. Questa in realtà si chiama Curva, perché è l'LP si chiama Curva Cieca Oblio, no, Cieca Curva Oblio, o no, Curva Cieca Oblio, insomma, no, non lo sappiamo. Beh, comunque se, cioè, diciamo che speriamo che ci stiano ascoltando per dirgli che li aspettiamo in Radio Città Fujiko presto per poter, insomma, parlare di questo pezzone che hai messo. Ah, ecco perché, no? E infatti non capivo perché mi era partito lo spot, perché c'era un errore nel file, a un certo punto si è segato, per cui vabbè, va bene lo stesso. Ha fatto un surprise. Tutto questo per mettere ancora più a suo agio il nostro ospite. Esatto. Forse è la seconda volta però che vi diceva che veniva in radio, non in Radio Città Fujiko. Mattia Lullini. Sì, Mattia Lullini, curatore, tra le altre cose, arriva da Gothenburg pochi mesi fa, presumo, perché non abbiamo ancora capito quando, per dare il via a una realtà, e mi correggo di non chiamarla galleria apposta, che si chiama Neven, aperta in Strada Maggiore, questo 28 a... E questo poco fa avete fatto due mostre, siete state allestendo quella del 4 di aprile, la terza. E raccontaci tu da dove vuoi partire. Ma prima di tutto, sì, nel senso, seconda volta in radio qua in Italia nel giro di un mese, è stato un piacere di essere ospite da Neuradio qualche settimana fa. E la concorrenza. Oi. No. Coxo Spaziale e Neuradio siamo praticamente gli unici che parlano di arte contemporanea in radio, a parte coso, come si chiama, Alessandro Brighetti, che però non mi ricordo mai come si chiama il suo programma. Scusa, vi interrompo sempre, andate avanti. Ma è veramente un piacere, anche perché è una piacevole sorpresa questa attenzione della radio italiana. In quasi dieci anni di galleria in Scandinavia non sono mai stato alla radio, quindi nessuno ti ha mai invitato in una radio locale scandinava? Non ancora. Ok. Ma non ci sono molto meno radio interessanti come Radio Città Fujiko, che tra l'altro, sentendo il vostro jingle all'inizio del programma, mi ha dato memoria di infanzia, praticamente di decine di anni fa. Però no, da dove iniziare? Due mesi fa Neven, questo progetto che è nato quasi per sbaglio 9 anni fa in Svezia, in un posto diametralmente opposto per tante cose, molto simile a Bologna per certe altre, ha aperto un secondo spazio qui a Bologna. E il primo è a Göteborg. Esattamente, nel senso, lì è dove l'idea è nata, o l'idea si è andata formando, perché se uno poi guarda tante delle realtà che diventano stabili, non è mai una traiettoria così diretta. È difficile, o secondo me è quasi impossibile, far partire un progetto così complesso da un piano prestabilito. Infatti è nato come una possibilità. È nato quanti anni fa a Göteborg? È nato nel 2015, quindi 9 anni fa, fra un mese. E la storia è quasi banale. Io e la mia compagna, l'artista Lina Bergnano, ci eravamo appena trasferiti a Göteborg, in realtà nell'estate del 2014, e avevamo cercato disperatamente uno spazio per avere uno studio artistico per 9 mesi, finché un amico non ci contatta e fa: forse c'è uno spazio che subaffittano, nel senso, è uno spazio carino, andiamo a vedere questo locale. Ci troviamo di fronte a questo negozio, per noi al tempo stupendo, in questo palazzo veramente particolare, in una zona veramente bella, perlomeno una delle zone che vivevamo di più al momento in città. E quando abbiamo visto questo spazio con 2 vetrine sulla strada, piccolissimo ma veramente carino, ci siamo detti: come facciamo? È lui. Come facciamo a chiuderlo al pubblico? Perché l'idea era uno studio privato, non era di aprire una galleria, né di aprire un artist run place. Cioè, era veramente ok. Stavamo cercando uno scantinato, uno spazio industriale. Certo, uno spazio vostro che poi infine è diventato a servizio dei fruitori dell'arte, no? Qual è stata la prima mostra da Neven a Göteborg? È stata una collettiva, anche lì, senza volerlo, un'idea che a questo punto, a guardarla al passato sembra quasi ovvia, ma abbiamo deciso di aprire, e quello che ci siamo trovati di fronte è che in verità c'erano pochissimi, era un subaffitto di 6 mesi soltanto, e non sapevamo che sarebbe stato il nostro spazio per i 5 anni successivi. Però ci siamo detti: ok, ci sono un numero di artisti in questa città che ci piacciono veramente tanto, e perché no? Perché non provare a contattarli? Non ne conoscevamo nessuno di questi artisti, o certo, pochissimi. E di, credo, 14-15 artisti che abbiamo contattato, nessuno ci ha detto di no. Quindi avete capito che stavate facendo qualcosa che poteva funzionare. Guarda, quando dopo aver fatto un evento Facebook ed esserci resi conto che avevamo in 2-4 persone da invitare e ci siamo trovati un opening con più di 200 persone, sì, ci è sembrato che in una maniera tutta casuale avevamo fatto qualcosa che in verità la città stava aspettando. Quindi non era tanto merito del nostro favoloso lavoro, ma era più che la stessa ragione per cui ci era sembrato interessante aprire uno spazio a Göteborg, che era l'assenza di spazi che sembrassero rappresentare la realtà artistica che ci interessava, non era percepita solo da noi. E la risposta è stata per tanti anni veramente calda, interessante, accogliente in un certo senso. Hai detto 4-5 anni perché poi avete traslocato di posto. Esattamente, nel senso, dopo i primi anni e in realtà fermarci un pochino, ma anche proprio iniziare nel tempo a capire un po' di più quello che volevamo, e come detto scoprirsi nel fare le cose più che partire da un piano e attuarlo. Ci siamo trovati che lo spazio era cresciuto oltre questo piccolissimo negozio in Bangotan, era il nome della via, e questo è successo però per gradi, a dir la verità, per il fatto che quello che appunto era stato un progetto piccolo, spontaneo, che voleva avere un tempo limitato, grazie a come funziona il sistema della cultura svedese, era diventato qualcosa di sostenibile, di fattibile, anzi di sentito come necessario. Certo. Certo, certo, qualcosa, certo. Qualcosa mi dice che il sistema della cultura svedese funziona un po' meglio del sistema della cultura italiana, o sbaglio? Perché c'è una cosa difficile in questo paese, proprio la sostenibilità, nel senso che tantissimi progetti nascono ma dopo 3 anni muoiono perché per insostenibilità del progetto. Assolutamente, si parla di un sistema, quello italiano, ma quello in realtà di gran parte dell'Europa, in cui manca totalmente una prospettiva legata a una professionalizzazione dei professionisti dell'arte, ma non solo dei lavoratori dal lato organizzativo, ma degli artisti stessi. Certo, tu pensa che non c'è ancora un codice ateco appositamente per gli artisti visivi in questo paese. Ma se uno inizia a parlare di quali sono le prospettive per gli artisti in Scandinavia, diventa che l'assenza di questo codice è quasi niente. No, okay. Ma infatti una delle ragioni proprio classiche di come questa cosa sia successa o come queste cose differiscano è stato che un anno dopo aver aperto, dopo un anno fantastico in un certo senso, di cui eravamo soddisfattissimi, eravamo più o meno sicuri di stare per chiudere, per il fatto che il progetto ovviamente non era sostenibile a livello economico, per quanto pochissimo costoso, e per quanto il pubblico ci fosse, nel senso, tutti e due vedevamo come veramente limitato quello che poteva essere, cioè il sviluppo. Esattamente, nel senso che non vedevamo nessuna maniera di trovare una sostenibilità a livello economico. Tutti e due avevamo i nostri personali progetti ed eravamo stanchi, era tipo ok, abbiamo fatto il nostro, è stato bello, magari questa parentesi sta per chiudere. E invece è stato lì che abbiamo preso per la prima volta un fondo dal parte della città di Göteborg, che dal 2015 sostiene la galleria annualmente a livello di fondi, e che è stata affiancata poi negli anni da altre differenti istituzioni svedesi che sostengono il progetto. E questo è successo così. Immaginate, certo. Immaginate due persone che hanno appena iniziato un progetto che ha un suo reach, una sua interessantezza, ma stiamo parlando di una cosa veramente di basso livello, se si giustappone al livello usuale della scena artistica italiana, anche solo. Certo. Ma con attenzione, con dettaglio, ci siamo trovati a essere contattati da una di queste, appunto dalla città di Göteborg, che non ha detto niente di speciale, ha detto non ci sono grandi soldi per voi, non ci è stato mai dato grandi budget, ma semplicemente si sono contattati e ci hanno detto: sappiate che progetti come il vostro sono importanti. Certo. E che noi abbiamo dei fondi appositi a cui uno deve applicare, e se volete vi aiutiamo a capire come si fanno queste applicazioni. E fantastico. E sono stati pochissimi soldi quelli che ci sono stati dati, e tuttora riguardo al nostro budget si parla di una parte minimale, ma quei, non mi ricordo neanche più, forse quella spicola briglia, 4.000 euro, certo. 5.000 che ci furono dati il primo anno per un anno di progetto. Certo. Non era niente, non erano di certo qualcosa per degli stipendi, di certo qualcosa per delle, certo, cose luculiane, era l'affitto dello spazio forse e la sicurezza di sentirsi, la appoggiato. Sensazione che ricordo è veramente, è una pacca sulle spalle, continuate, c'è un'importanza in quello che fate, per quanto certo, piccolo. Certo, certo, certo, e questo vi ha portato poi a Bologna. Negli anni sì, 8 anni avanti ci sono stati vari step, varie crescite, e ci siamo trovati a pensare a come fare lo step successivo, nel senso, il sistema dell'arte si basa su delle crescite regolari, siamo pur tuttavia inseriti in un sistema che vuole che un progetto per crescere debba crescere fisicamente, visivamente, e la nostra idea è stata anche lì, come Neven si è sviluppato negli anni in una maniera tipica, di provare di crescere in una maniera tipica, e quindi solo 8 anni dopo essere nati, che è pochissimo per uno spazio galleristico, per una galleria se si vuol dire, abbiamo deciso che la maniera di crescere non era prendere uno spazio enorme, cioè di ingrandire il nostro spazio a dismisura, non era fare decine esagerato, ma più di 10, come tante gallerie fanno fiere all'anno per viaggiare in quella maniera. A noi piacciono fare mostre, e fare mostre ed essere una presenza reale in uno spazio, in una città, in una realtà. E quindi abbiamo iniziato a coltivare questa idea un po' matta di aprire una seconda galleria in un'altra città, in un'altra nazione. Io vi ho interrotto per farvi sentire il Marcone Frozen Roses, il nuovo singolo della band Pindar. Però nello stesso tempo è arrivato un messaggio che dice: ciao Mattia, bravo, però potevi dirlo ai vecchi amici che tornavi a Bologna. Chi è? Non lo so, non si è firmato. Vi salutiamo subito tutti i vecchi amici di Bologna. Mattia Lullini, questa puntata la dedica a voi, dai. Davvero, qualcuno qui ha avuto la vita così rivoluzionata che non ha ancora fatto in tempo a chiamare i vecchi amici. Ma nessuno, quasi. No, tolgo quasi. Per quindi, cui no, tante scuse. Non ti sentire. Tu che hai scritto, se vuoi, naturalmente, forse i vostri numeri li avete, però in caso mettiti il nome, oppure sappi che prima o poi Mattia arriva, dai, con calma. Secondo Alpo, Open Mic, a sparkle on the Dark Water, è uscito il 22 marzo. E naturalmente ringraziamo Nicola di Peyote Press che ci ha mandato questa Frozen Roses dei Pindar. E ok, siamo tornati con Mattia che viene sgridato in diretta dai suoi vecchi amici perché non si è ancora fatto sentire. Beh, però i suoi vecchi amici possono sempre andare il 4 aprile in Strada Maggiore da Neven, dove aprirà la terza mostra. Infatti, fra l'altro ti abbiamo chiamato perfettamente perché così puoi raccontare che cosa succede il 4 aprile nella seconda parte della nostra, che fra l'altro è fra pochissimo. nella seconda parte della nostra puntata. Sono già i 28, per cui abbiamo giusto il tempo di ascoltare un altro vecchio caro amico che come al solito ci manda questo fantastico vocale. Eccolo qua. Buongiorno! Mi ricordo di te, di ogni tecnologia, mi ricordo di che, della passione che avevi di comporre la musica per Marco Roma. Buongiorno a tutti voi. Eccolo qua, il nostro caro vecchio Marco Fantastico. Roma, e devi sapere che Marco Roma manda un vocale tutti i giorni a Radio Città Fujiko, e naturalmente noi non potremmo non farlo sentire. E molto bene, direi che a questo punto possiamo fare questa cosa qua, ovvero Coxo Spaziale! Yeah! Ecco, mi ero sbagliato, avevo messo del silenzio. Ah no, ecco. L'angolo infatti, della menzione. Ho sbagliato tutto. No, è non mia. È vero, se vuoi facciamo subito l'angolo della menzione. Cosa dici? È partito così. Sì, è partito così, in effetti possiamo anche farlo. Ce l'hai tu? Perché in realtà io sì, mi sono sbagliato, perché non ci sei tu in regia stasera. Ormai sono abituato. Io sono in vacanza. Sono stasera. Abituato. Comunque, detto questo, sì, facciamo l'angolo della menzione perché è lunghissimo, così dopo possiamo continuare con calma a parlare con Mattia. Allora, martedì 26 marzo alle ore 14:30, che sarebbe domani, l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita la presentazione del libro La Formula della Creazione, Città dell'Arte, edizioni del 2022, del maestro dell'arte povera Michelangelo Pistoletto, che per l'occasione dialogherà con la storica dell'arte Silvia Evangelisti, che salutiamo, e l'evento è a cura della docente Caterina Coluccio, che salutiamo anche lei, dell'architetto Giacomo Basmai. Questa è all'Accademia di Belle Arti di Bologna, in via Belle Arti 54 a Bologna. Giovedì 28 marzo invece alle 18:30 la sala conferenze Mambo ospita la presentazione del progetto di Silvia Cini, Avant que nature meure. Che bello che la dici tu in francese. Lo fai apposta, infatti. Certo. Tra i vincitori dell'11ª edizione dell'Italian Council, Silvia Cini pone come centro della propria pratica artistica l'ecosistema, prendendone in analisi specifici elementi e compiendo una trasposizione simbolica nei rapporti interpersonali e sociali, come per la simbiosi tra orchidee e ife dei funghi, che diviene metafora del mutuo appoggio. Silvia Cini sarà in dialogo con Umberto Mossetti, curatore ortobotanico ed erbario, sistema museale di Ateneo, Università di Bologna, e Riccardo Venturi, critico e storico dell'arte, docente presso École des Arts della Sorbonne. Modera l'incontro Alessandra Pioselli, curatrice del libro e dei talk del progetto. Introduce Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, e tutto questo sarà appunto al Mambo in via Dominzoni 14. Dopodiché cosa abbiamo? Sabato 30 marzo alle ore 17, Matrice 7 è un movimento che prende la forma di una mappa che congiunge tre mostre sul disegno contemporaneo nel palazzo della Fondazione del Monte, Cassa di Risparmio in Piazza Baracca a Lubugo. La prima mostra si intitola I disegni e le cose, un progetto di Massimiliano Fabbri e Giulia Garuffi, con tantissimi artisti, non li menzioniamo perché sono troppi e poi ci sono anch'io e dunque non va bene. Drawings from Motel, a cura di Art Motel, naturalmente salutiamo Lucia e Coso, come si chiama, non mi viene in mente, anche qui abbiamo un miliardo di artisti. Questo è al Palazzo della Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte in Piazza Baracca 24 a Lugo, per cui sabato tutti a Lugo. E poi abbiamo anche una personale di Massimiliano Fabbri chiamata Disegni 2020-2024, sette stanze che funzionano come episodi che prendono la forma di una specie di diario, perché molte sono le affinità tra la pratica del disegno e quella della scrittura. Questo è il Palazzo della Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte in Piazza Baracca 24 a Lugo di Ravenna. Mercoledì 3 aprile invece alle ore 16 il volto dell'Ottocento nei ritratti del Museo della Musica, conferenza con Giovanna degli Espositi. Nel museo è conservato un grande numero di ritratti che consente di aggiungere opere nel percorso di artisti ben noti e di conoscerne i dimenticati. Tutto questo al Palazzo Segni Masetti in Strada Maggiore 23 ad ingresso libero. Mercoledì 3 aprile alle 17 abbiamo anche la formazione artistica nell'Ottocento, gli spazi storici dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, una visita guidata, un'occasione preziosa per ammirare l'aula magna, l'aula clementina e quella curlandese dell'istituto, ed è un, appunto, una visita guidata gratuita. Questa è all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54. Giovedì 4 aprile alle ore 17 l'Ottocento nelle raccolte della Fondazione Carisbo e il caso di Giuseppe Badiali, pittore di camere e di scene. Conferenza con Angelo Mazza e Pierangelo Bellettini, incontro che si concentra alla recente acquisizione di un nucleo di bozzetti scenografici di Giuseppe Badiali dal 1798-1859 per opere di melodramma. Alla Fondazione Cassa di Risparmio Bologna, Genius Bologna, Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, via Nazario Sauro 20/2. Tutte queste sono cose che hanno naturalmente a che fare con la mostra del lungo Ottocento che Isabella Stancari è venuta a raccontarci. Quando è stato? Due o tre settimane fa. Dopodiché giovedì 4 aprile alle ore 18 inaugura la Galleria Studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 la mostra Legami Fragili a cura di Raffaele Quattrone, che ha coinvolto Rosalia Banet, Enrica Borghi, Zeno Bertozzi, Davide Bramante, Roberta Cavallari, Pierpaolo Curti, Alberto Di Fabio, Armida Gandini, Kepa Garazza, Alberto Gianfreda, Alessandro Moreschini, Sabrina Muzzi e Antonio Riello. Questo allo Studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 a Bologna. Giovedì 4 aprile alle ore 18 al Camilla li deve presentare l'asta della collezione Fantin. Emilio Fantin mostra e mette in vendita le non opere della sua collezione, raccolte nel corso degli anni. Ogni non opera è corredata da un piccolo racconto che la contestualizza all'interno della collezione. Tutto questo da Alchimilla in via Santo Stefano numero 43. Ma prima di fare sbabang abbiamo anche la voce di Emilio Fantin che ci racconta questa cosa, questa incredibile asta. Sentiamolo. Buongiorno Stefano e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sono Emilio Fantin e volevo parlarvi di questa collezione Fantin, che è una collezione che io ho messo assieme negli anni. È una collezione di non opere, quindi è una collezione di cose che riguardano degli artisti anche molto importanti, famosi e non, e che però sono borderline, non sono di facile definizione, nel senso che sì, possono essere forse delle opere, ma anche no, e quindi nasce da questa ambiguità un interesse specifico. E quello che volevo dirvi è che metterò in asta la mia collezione il 4 aprile alle ore 18 ad Alchemilla, al Palazzo Sanguinetti, e quindi vorrei darvi questa notizia perché potrebbe essere un momento divertente e anche è un momento in cui poter acquisire una di queste interessanti non opere. C'è un lavoro di Yoko Ono, per esempio, che è una piccola cartolina e un piccolo puzzle sul cielo, e c'è un lavoro di John Jonas che è una palla informe di carta, che non è altro che appunto una palla che è un disegno da lei fatta durante una performance che è stata appallottolato. C'è un quadro di Pietro Iusti che quando si vende diventa falso. C'è un manifesto con la faccia di Cattelan che invita ad unirsi al CNA degli anni 90, e c'è un sasso di polistirolo di Gilardi trovato nella spazzatura, e è una lista piuttosto fornita di questi equivoci. Hai capito gli equivoci di Fantin. Dopodiché cos'altro abbiamo? Aspetta, il 4 aprile, che è giovedì, giusto? È inaugura Neven, per cui ci devi raccontare tutto tu, Mattia, perché non sappiamo assolutamente niente, non sono ancora nella tua mailing list. Poi quello proveremo di rimediare. Assolutamente. Bene, il 4 aprile apriamo due nuove mostre, perché lo spazio di Bologna ci dà la possibilità di in contemporanea avere due spazi espositivi in cui aprire sempre due mostre in contemporanea. Quello che porteremo di preciso sarà una tripersonale che vuole unire il lavoro di tre artiste, due nordiche e una mitteleuropea, che hanno poco in comune e forse tantissimo. Le artiste sono un'artista che definirei leggendaria, Clara Kristalova, che è forse la scultrice vivente più importante di Svezia in questo momento, che mi sto ancora chiedendo come siamo riusciti a portare in questa mostra, assieme a una giovane artista svedese di nome Emily Sandström e alla pittrice e scultrice austriaca Anna Schackinger. Questa mostra che trae la sua narrazione in verità da uno dei libri secondo me più importanti della letteratura italiana dello scorso secolo e più speciali per me, che sono i dialoghi con Leucò di Pavese, e usa in verità questo strano libro in cui i personaggi della mitologia greca vengono messi in queste specie di dialoghi apocrifi e vengono usati da Pavese per parlare poi del senso della vita, dell'amore, della narrazione stessa, del fare arte stesso. Viene usato come nella nostra idea vengono usate queste tre pratiche che hanno a tratti contatti mitologici, a tratti fiabeschi, a tratti invece diventano fortemente politici in un senso femminista, in un senso queer. A questa mostra, che prenderà in una maniera un po' scenica, con sculture in ceramica, in legno, la stanza principale della galleria, giustapporremo quella che è una mostra secondo me importantissima per la galleria, che è la prima personale di un'artista italiana che abbiamo a Neven qua a Bologna, e in vero la prima personale di una giovane artista italiana in toto. Lei si chiama Letizia Lucchetti ed è una pittrice che è alla fine del suo percorso all'Accademia di Belle Arti di Bologna e che apre una delle due cose principali che pensiamo e speriamo che Neven possa fare in Italia a Bologna, che sia sì da un lato portare una prospettiva internazionale e una visione sulla scena artistica contemporanea fresca o quantomeno non consueta, dall'altro però anche aprire un dialogo con la scena artistica italiana e nel tempo iniziare a fare quello che in tanti anni siamo riusciti poi a fare in Svezia, che è mettere assieme e collaborare con un numero di artisti di una nuova generazione che dopo anni di collaborazione sta diventando più materiale da musei che materiale da introduzioni, e più un gruppo assodato che dei tentativi, per così dire. E dunque tutti da Neven giovedì 4 aprile dalle 18? Dalle 18 alle 21. Dalle 18 alle 21, yeah. Sabato 6 aprile invece dalle 15 alle 20 inaugura alla P420 la mostra Sentimento Illumina con Piero Manai e Alessandro Pessoli. Pessoli. In Piazza Gardino 9. Olè. Avevo perso lo stacco. Sì, in effetti non c'è ancora il comunicato stampa, per cui non si sa assolutamente niente di questa mostra, a parte che Pessoli e Manai sono due pittori fantastici, per cui saranno contenti i nostri studenti di pittura. Domenica 7 aprile invece alle 11 al Via Masterpiece, Sulle tracce della meraviglia, una nuova docuserie condotta da Raffaele Quattrone, che dal 7 aprile ogni domenica alle 11 andrà in onda in anteprima su Documentando, archivio del documentario italiano, la piattaforma digitale di conservazione e visione dei documentari italiani ad accesso libero senza restrizioni territoriali, ideata dall'associazione DER Documentaristi Emilia Romagna APS in collaborazione con Emilia Romagna Film Commission e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Lo troverete online su appunto documentando.org. Domenica 7 aprile alle ore 18 in occasione di Boom, Crescere nei libri, Festival dei libri e dell'illustrazione per l'infanzia che anima Bologna, la città metropolitana. Prima, durante e dopo la Bologna Children's Book Fair, il Dipartimento Educativo Mambo ospita la mostra Mondo che creo, Mondo che desidero, allestita nei suoi spazi in collaborazione con Kite Edizioni, dedicata agli autori e illustratori iraniani Nasli Tavili. Anche e quello te l'ho lasciato a te. Grazie. Amin Hassan Des Sharif. Tutto questo al Mambo in via Domenzione 14, Bologna. Dopodiché arriviamo fino al lunedì 8, in cui ci sarà la nuova puntata di Coxo Spaziale, ma prima alle 16 la storia nel bronzo, statue a Bologna fra 8 e 900, conferenza con Rinaldo Falcioni, a fine 800 per le vie e le piazze di Bologna, nuove statue in bronzo illustrano il mito del risorgimento, dal popolano di piazza 8 agosto al re a cavallo in piazza Maggiore viene modellato l'arco retorico dell'unità nazionale. Questa è all'Ascom Confcommercio di Bologna, Palazzo Segni Masè, in strada Maggiore 23 ad ingresso libero, lunedì 8 aprile alle 16, sempre parte naturalmente del secolo lungo dell'Ottocento, no, come si chiama? Non mi ricordo più come si chiama la mostra, la mostra diffusa che Isabella Stancari e l'altro co-curatore di cui non mi ricordo il nome, sono terribili veramente. E vabbè, dai, va bene così, il lungo secolo dell'Ottocento e basta, sono finite le menzioni, per cui possiamo anche seppellirci la pittura a Bologna nel lungo Ottocento, dal 1796 al 1915. Ah sì, in effetti di Isabella Stancari e Roberto Martorelli. Martorelli, non mi veniva il cognome, eccolo qua. Bene, allora faccio così. Cosa? Siamo ancora negli ultimi 5 minuti della puntata di Coxo Spaziale. No, come 5 minuti? Sono le 48. Ah, abbiamo un sacco di tempo ancora. Possiamo anche ascoltare un pezzo che è uscito da poco, che si chiama, aspetta un attimo, Fiori e Baci. Nuovo singolo dei Manitoba featuring Edda, ed è uscito oggi per Pioggia Rossa Dischi, e naturalmente ringraziamo Agnese di Pearl Press che ce lo segnala. Adesso, se lo trovo, ve lo faccio anche sentire. Questo è Frozen Roses. Dove è andato? No, ah, eccolo qua. Parlare con me, parlare. quando parli con me. Ho uno sguardo nascosto. Generare ricordi sulle tue scarpe c'è sangue, polvere su polvere. Nessuno ha bisogno di grazia e di Dio. Ricordo, ricordi di fiori e mi baci anch'io, e non ho bisogno, ho solo il ricordo di stare con te. E passavo il pensiero, ora invece sorrido, ne avevo bisogno, ho solo la voglia di stare con te. Fiori e baci di Manitoba e dono dell'ubiquità, mi sembra che ti serva da quello che ci siamo detti fuori onda. Fuori onda. Perché la galleria, lo spazio, la realtà, il progetto Neven, di cui adesso ci dirai da dove viene il nome, prima di tutto, e poi è in sincrono con cioè diciamo in differita, in staffetta con le mostre che avvengono a Göteborg. Esattamente, infatti sì, nel senso quella è la ragione per cui posso provare di giustificarmi ai vecchi amici e allo stesso tempo di tanta parte di come si è sviluppato Neven dopo questi anni, nel senso che Bologna non vuole essere né un punto di arrivo né uno spostamento della galleria, è una crescita, infatti l'idea un po' folle che ha alimentato, che ha portato a questo passo è stata quella di uno spazio diffuso, quindi non tanto di seguire quello che è l'idea della galleria internazionale, intercontinentale con sedi nelle varie capitali, ma più di pensare a uno spazio espositivo che raggiunge in senso periferico un pubblico più vasto, che non chiede a un pubblico di raggiungerlo ma che si espande, che diventa vario, che prende diverse forme. Questo perché Neven stesso vuole essere qualcosa che mette in dubbio alcune appunto delle forme dell'arte. Raccontaci nelle mille cose che poi quest'ultima frase potrebbe aprire come argomenti, raccontaci il perché del nome e il perché della città. Il perché del nome è parte della storia di cui parlavamo inizio puntata, che è la casualità del nostro inizio. Quando uno apre una galleria senza pensare che stava per aprire una galleria e vuole fare una mostra senza aver programmato di fare una mostra, potrebbe trovarsi che ha 15 artisti, il nome di una mostra e una data dell'apertura, ma si rende conto che per invitare quei 4 amici appunto su Facebook che c'erano al tempo, uno deve avere un nome di uno spazio. E quindi in una maniera un po' improvvisata, un po' casuale, mi sono trovato con la mia compagna a dover pensare un nome più o meno in una serata, e tante parole sono venute in mente, nessuna delle quali funzionasse. Neven ne unisce più di una e non vuole riassumerne nessuna. Neven è nato come una parola astratta e rimane tale, anzi per quello è scritta in lettere maiuscole per accentuare la sua palindromia, ma proprio perché per noi è più un simbolo, è più un, come fosse un disegno, per così dire. E 9 anni dopo sono ancora ok con il nome che è stato scelto quella sera, che è andata bene, dai, davvero. E no, quindi così Bologna, per andare in nuce alle due domande cruciali, Bologna perché da un lato è la città in cui sono cresciuto, è una città a cui devo tantissimo, è una città speciale in tante maniere. In realtà ti avevamo chiesto come mai Göteborg, però va bene lo stesso. No, anche come mai Bologna, anche come Bologna. Beh, è più facile Bologna, dai. Se vieni da Bologna Non era facile. No? Ok. Dici? Ma non lo so, non lo so, io sono tornato a casa, per cui un po' ti capisco. Poi... ma il mio problema è il fatto di non essere tornato a casa. Mm-hmm. O perlomeno di trovarmi a casa in questo momento, ma trovarmi in una casa, nel senso che l'essere stato qua a Bologna questo quasi nell'ultimo anno così tanto mi ha portato a capire tanto sia sulle mie origini sia sul fatto che casa sia diventata un altro posto. Ah, certo. La galleria, come detto, continua in Scandinavia e io sono l'unico del team della galleria che viaggia fra i due spazi, ovviamente per ragioni di sostenibilità e di ecologia. Di italiano anche? No, abbiamo adesso personale italiano qua a Bologna, naturalmente, però no, nel senso, l'idea è perché Bologna e perché Göteborg, perché entrambe le città si sono aperte in un certo qual modo, nel senso, quando abbiamo deciso di espanderci le città e le opportunità erano molteplici, ma quasi tutto in Nord Europa, a dir la verità, e Bologna tra i posti in cui ho piantato un seme un paio di anni fa e visto se c'era qualcosa che si muoveva a livello locale, a livello di appoggi e di contatti, Bologna è stato l'unico posto in cui qualcosa si è mosso in effetti, e in cui artisti e colleghi come Mattia Paillè, ad esempio, della gelateria Sogni di Ghiaccio, che nel momento in cui anche solo ha sentito che stavamo pensando a uno spazio qua in città ci ha aiutato tantissimo, e altri che, per modesti, alcuni non vogliono essere citati, posso citarli io se vuoi ma che sono stati cruciali nel rendere possibile lo spazio qua, e l'apparizione di uno spazio ha fatto sì che Bologna fosse nessuna delle città più facili o più vicine, e ne sono grato per il fatto che non solo è un rendere molto più potente quella che era un'idea abbozzata, e avere questo spazio che colma uno spazio tra il nord dell'Europa e l'area mediterranea, che colma un'intera cultura con una completamente diversa, forse una delle più diverse in Europa. Quindi ringraziamo tutto il team sia di Göteborg sia di Bologna che ti ha accompagnato e ti accompagna in questa avventura, no? Possiamo... Assolutamente, nel senso, anche perché non sono di certo io da solo che ho fatto essere questo progetto, ma visto che siamo in più di 10 diventa un pochino complicato qua fare una citazione di tutti quanti. Però li aspettiamo una puntata spaziale, cosa dici Ste? Tutti e 10, certo, assolutamente. Mattia, Matteo, tutti quelli che ti hanno aiutato ad aprire in Strada Maggiore. Io ti ringrazio tantissimo e qua ci dobbiamo salutare, perché mi dice l'orologio che sono i 58, per cui siamo già anche in ritardo. E dunque, che dire, grazie mille per essere stato qui con noi, per averci raccontato un po' della tua storia. Speriamo che tornerai tra i tuoi viaggi tra una mostra e l'altra. Ma quando volete, grazie più che altro a voi per questo interesse. E come al solito ci salutiamo con le parole: io ero Mia da Schio su Piè, naturalmente. E io Stefano W. Pasquini. E come al solito ci salutiamo con le parole del nostro mega direttore, che caldamente ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.